che la scienza non è frutto, non è un manuale, non è frutto di qualcosa che è assolutamente avulso dal contesto storico scientifico, né tantomeno chi la fa è assolutamente al di sopra di ciò che avviene nella storia. Sono esseri umani con tutti i propri limiti, le loro debolezze, i loro dubbi e gli errori. Innanzitutto dico a chi ci ascolta, ai nostri radioascoltatori, che io, insomma, sì, questa, come dici tu, è la prima volta che ci impegniamo in una cosa così. Abbiamo ritenuto, non ripeto quello che hai detto tu, ovviamente noi lo riteniamo anche importante da questo punto di vista, utilizzare il metodo, il racconto biografico, proprio per far passare determinati tipi di riflessioni, di messaggi da questo punto di vista. Io mi scuso in anticipo se qualche cosa è imprecisa rispetto a qualche data, a qualche nome, però devo dire che studiando la vita di questa grande fisica, incominciamo da una donna, perché poi cominciare dalle donne? Perché ovviamente è una questione innanzitutto di attualità, ma soprattutto perché parlando dei personaggi femminili come che hanno fatto la storia della scienza, come Madame Curie e come tantissime altre, è costellata di tantissimi ostacoli, molti di più rispetto a quelli che hanno avuto gli uomini di scienza. Hanno dovuto lottare tantissimo le donne, hanno dovuto per percorrere o comunque fare sforzi incommensurabili rispetto a quello che poteva essere lo sforzo di un uomo per fare una carriera scientifica, un'abnegazione, io direi quasi, leggendo la vita di questa fisica, sovrannaturali. Quindi mi scuso in anticipo per se c'è qualche mio errore, ma insomma speriamo che il messaggio io e te, Lorenzo, riusciamo a mandare qualcosa di positivo rispetto a questo. E allora incominciamo. Insomma, il personaggio di cui parliamo stasera si chiama Lise Meitner, una fisica austriaca, viennese nella fattispecie, che è nata nel 1878, appunto, e dicevamo, appunto, 143 anni fa, proprio il 7 novembre, ieri. Auguri a Lise Meitner. Lise Meitner ha dei primati assoluti. È stata, per esempio, la prima ad aver conseguito un dottorato in scienze presso l'antica e prestigiosa Università di Vienna. È stata la prima donna allieva di Boltzmann, un grandissimo fisico che poi accennerò. Prima donna in assoluto ad avere una posizione presso l'Università di Berlino, fu direttrice della sezione di fisica del Dipartimento di Berlino Thalem. Una coppia fondamentale per la storia fisica. Lei, insieme al fisico Otto Hahn, fece l'attività di ricerca per più di 40 anni. Fu candidata per ben insieme a Otto Hahn, lei personalmente due o tre volte, se non ricordo bene, ma 12 volte in tutto, candidata al premio Nobel. Non l'ottenne mai, mentre Otto Hahn l'ottenne, ma poi lo vedremo il perché. Insomma, dicevo, nasce a Vienna il 7 novembre del 1878. Il padre è avvocato, viene da una famiglia colta, ovviamente ebrea, di origine ebrea, scappate dal nord-est d'Europa dopo la cacciata degli ebrei. È una famiglia colta, dicevo, della borghesia, della media borghesia austriaca, quindi viennese a quel tempo, nel 1878. Questa condizione di borghesia colta la vivono fino in fondo, nel senso che poca attenzione alla religione e un grande rispetto per le libertà individuali, cioè quindi una famiglia molto laica. Il padre avvocato è uno che si batte per i diritti delle donne da sempre, si è sempre battuto, ha una grandissima sensibilità, come la madre, sono una famiglia, dicevo, colta. Lasciano molto spazio ai figli, proprio una libertà di scelta nelle proprie decisioni, nelle proprie esperienze, ed è questo che grazie a questa famiglia, grazie proprio al sostegno sia culturale che economico, Lisa Meitner riesce a studiare, riesce a diventare una scienziata. È la terza figlia di otto figli, di 8 figli. Lei è la prima donna, è la prima figlia femmina di 8 figli. Anche la sorella più grande riuscirà a studiare. Questo perché lo dico? Perché in quegli anni la Germania e l'Austria, il mondo prussiano, diciamo, era la parte più arretrata da questo punto di vista, dai diritti delle donne. Alle donne non veniva consentito di studiare, era completamente proibita sia all'università sia se qualsiasi altra forma intellettuale. L'unica cosa che veniva autorizzata alle donne era quello che noi il liceo pedagogico, cioè quello che noi diremo oggi le magistrali. Il gymnasium era l'unico riservato solo ai maschi, era l'unico liceo che ti riusciva poi che riusciva a mandarti all'università, che ti però era riservata ai maschi. Lei quindi è costretta, nonostante sin da subito all'età di 8 anni lei la passione per la matematica e la fisica è enorme, lei viene osteggiata, insomma, dal mondo, tranne dai genitori, ma viene osteggiata da tutti, non riescono a capire come mai, per esempio, è appassionata di algebra. Quando ha 8 anni nasconde sotto il cuscino i libri di matematica e di fisica per studiarli la notte all'età di 8 anni, e quando si trova a studiare a studiare al liceo pedagogico viene redarguita anche aspramente dalla professoressa di matematica, dicendogli che l'algebra non era affare di donne, non aveva senso, non doveva studiarla. E quindi questo è il clima dell'Austria di quel tempo. Ma lei, con l'aiuto dei genitori, con la sua grandissima forza di volontà, in tutti quegli anni, fino a quando non conseguisce il diploma da maestra, lei studia ininterrottamente la fisica e la matematica. Succede questo poi che nel 1899 in Prussia cambia un po' la situazione, e a quel punto le donne possono accedere all'università, all'insegnamento, ma attraverso un esame che si chiama matura, un esame integrativo. Ovviamente per avere questo esame integrativo era un esame che veniva richiesto una preparazione tale quale agli 8 anni di gymnasium. Quindi Lisa Meitner, per continuare a studiare, per avere la possibilità di accesso all'università, insieme alla sorella, che poi prenderà la laurea in medicina nel 1900, lei nel 1901 riesce a conseguire la maturità di questo esame, in soli due anni lei recupera quello che il programma prevedeva in 8 anni del gymnasium. Ha uno studio matto e disperato, proprio nel vero senso della parola. Riesce, e all'esame si presentano in 14 donne a questo esame matura. Solo 4 passano, 2 non mi ricordo il nome, ma non sono famose. Ma lei riesce a passarlo questo esame, in cui viene bombardata, viene proprio distrutta dalle domande, perché comunque c'era sempre stato e c'era comunque anche dopo questa legge un atteggiamento molto ostile nei confronti delle donne. Quindi un esame difficile, duro, ma lei, per la grande preparazione, lo passa, riesce a passarlo insieme a un'altra donna, Henriette Boltzmann, la figlia del grande Boltzmann, del fisico, uno dei più grandi fisici, Edwin Boltzmann, dei più grandi fisici della storia dell'uomo. Boltzmann, perché non è a caso, perché Boltzmann era una persona come il padre di Lisa Meitner, che spingeva, che aveva a cuore i diritti delle donne, che vedeva, intravedeva, visionario, un futuro di diritti, di uguaglianza. E questa è, infatti, anche Henriette Boltzmann divenne una grande fisica. E quindi passano. Però nonostante tutto, il padre e la madre di Lisa l'avvertono, gli dicono: sei stata brava, ma non prendere materie scientifiche, perché lì comunque verrai ostacolata, verrai comunque bloccata, perché all'epoca nessuno credeva che una donna potesse fare scienza. Studiare forse sì, ma scienza proprio no, era un mondo prettamente maschile. Lisa Meitner invece insiste, continua e diventa una grandissima fisica, ecco. Questo percorso però fu veramente di grandi ostacoli. Lei fa fatica, studiava seguiva 25 ore a settimana di corsi, era infaticabile, doveva fare, come dire, il doppio, il triplo di sforzo rispetto a un uomo da questo punto di vista. Però all'epoca, dobbiamo dire, appunto, nasce nel 1878, a cavallo del Novecento, il Novecento, inizi del Novecento del XX secolo, per la fisica è il periodo d'oro. In quell'epoca lei, appunto, diventa allieva di Boltzmann, allieva di Planck, c'era Einstein, e vive in una società da questo punto di vista in completo fermento culturale. È l'epoca delle grandi scoperte, è l'epoca che si rimette in discussione le basi della fisica, della scienza, perché avvengono nuove scoperte. C'era un'altra grandissima donna, appunto accennato prima, che tutti conoscono, Madame Curie, la polacca, a Parigi, che fa scoperte insieme al marito incredibili, incominciano a studiare i fenomeni della radioattività, cioè di quello che poi portò all'apice, no? Quindi alla scoperta, appunto, della fissione nucleare, di cui Lisa Meitner, poi vedremo, è stata una delle più grandi artefici per capire i meccanismi della fissione nucleare. E qui io mi fermo, perché adesso mandiamo uno stacco musicale, ma questo è il primo passaggio. Lei continua, studia, e poi vedremo come va, perché poi incomincia la Repubblica di Weimar, incomincia la Prima Guerra Mondiale, e poi ci sarà il fascismo. Lei le vive tutte queste. See you. ritorniamo in audio con lo sfondo, sullo sfondo ancora Virginiana Miller per La libertà che sfumano. Oggi ci sentiamo un po' di roba di Virginiana Miller che non sentivamo da tanto tempo. E, stiamo parlando della storia, abbiamo detto la biografia come elemento di lettura della storia, e fino a poco tempo fa, fino a 5 minuti fa, il comandante Jacopo ci ha raccontato l'infanzia di Liz Meitner, la sua difficoltà, questa che poi è diventata una, evidentemente scopriremo, importante nella storia della scienza, però finora il comandante ci ha raccontato la sua difficoltà alla fine nata alla fine dell'Ottocento e quindi a cavallo del passaggio del secolo tra l'Ottocento e il Novecento, la difficoltà di una aspirante ricercatrice, aspirante studiosa di scienza in un mondo dominato assolutamente dal maschile e assolutamente impermeabile alla possibilità d'accesso. Liz Meitner, insieme anche alla figlia di Boltzmann, quindi insomma comunque provenendo da una situazione favorevole, però insomma sfidano grazie alla loro super capacità, evidentemente lei studiava algebra di notte nonostante la scoraggiasse, così sfidano le leggi non dette del tempo, anche le leggi reali, e accede quindi a questa posizione all'epoca inedita, privilegiata, e quindi adesso vediamo come va avanti. A te, Jack. Eccoci qua di nuovo, grazie Lorenzo. Per tornare al discorso di prima, allora la Meitner appunto accede all'università e inizia i corsi. Dicevo del padre, della famiglia, che comunque hanno paura di questo, e cito le testuali parole del padre Philip Meitner, perché dice che il papà, quando vinse e poté iscriversi, era molto entusiasta, la mamma molto meno. E testuali parole: non era quello il futuro che avevo immaginato per mia figlia. E poi chissà quali difficoltà incontrerà la mia bambina in quel mondo di maschi che ancora considerano blasfema la presenza di una donna tra le sacre mura dell'università. Ma fedele allo spirito liberale della famiglia, la madre di Liza Meitner non lascia minimamente intendere le sue paure e le sue perplessità. E questo fu lo spirito di sostentamento che venne sostenuta per più di 10-15 anni. Oltre gli studi, lei continuò, ovviamente voleva fare solo la fisica, ma non percepì mai stipendio per più di 10-12 anni. Si trasferì subito, una volta laureata a Vienna, dopo un po' si trasferì a Berlino, perché Berlino a quel tempo era la culla della fisica moderna, c'era il Goethe della fisica moderna, c'era Planck, poi arrivò pure Einstein, c'erano i più grandi, però e per perseguire il suo obiettivo, grazie al sostentamento della famiglia, lei però per 10-12 anni, nonostante era già una validissima fisica, non percepì mai stipendio. Fu solo grazie proprio al sostegno della famiglia. Però riprendiamo un attimo quando studiava, perché ecco, per farvi capire il clima dell'epoca, di quanto poteva essere anche molto bello, interessante e soprattutto fecondo a vivere nell'università di quel tempo a Vienna. Vienna all'epoca era una città bellissima, era una città colta, c'era Freud, c'erano i più grandi, insomma, del pensiero del Novecento. All'epoca era la culla proprio del pensiero moderno, poi fu la culla tutta la Vienna e la Germania di quel tempo. Si trovò di fronte appunto, arrivò Boltzmann come professore che cominciò a insegnare meccanica statistica. Liza Meitner fu folgorata quando vide Boltzmann, perché Boltzmann è stato uno dei più grandi uomini di ingegno, ha avuto un ruolo fondamentale, lui è riuscito, diciamo che fu il padre della concezione atomistica, e all'epoca a Vienna, quando Boltzmann prese la cattedra, c'era un aspro dibattito, un aspro confronto con un altro grande della fisica, Ernest Mach, che vedeva la fisica un positivista. Ecco perché un po' si intende, è un positivista. Positivista significava, a dirla così in due parole, che Mach non credeva nell'esistenza dell'atomo, perché diceva che la fisica era tutto quello che si poteva misurare e vedere. Quindi se l'atomo non si poteva vedere, non si poteva misurare, non esisteva. Quindi E invece Boltzmann, con tutta la sua teoria della termodinamica statistica, lui come punto proprio centrale di basilare per lo studio della meccanica statistica fu proprio la concezione atomistica, cioè considerare l'atomo come punto centrale, come mattone fondante di tutta la realtà. E per dire quanto fu aspro questo scontro, io voglio dirvi solo che quando Boltzmann fece la prima conferenza dopo che prese la cattedra a Vienna, parlò in maniera schietta nella sua prima conferenza e disse Ludwig Boltzmann: non cito alcuno dei miei predecessori, dice, perché non ho precursori, sono attaccato da Mach, perché credo che gli atomi esistano, ma non sento da parte di chi mi attacca un solo argomento scientifico, sento solo argomenti filosofici, e quella è una filosofia che non capisco. A queste parole Lisa Meitner si innamora, ecco, tra virgolette, si innamora di Boltzmann e incontra Lisa l'atomo, la concezione atomistica, che non l'abbandonerà per tutta la vita. È un incontro decisivo, proprio concettuale, l'incontro della vita si può definire. E da qui Lisa Meitner tutta la sua carriera scientifica la dedica proprio allo studio dell'atomo. La Germania affronta, diciamo, è a cavallo del Novecento, quindi si trova di fronte, Lisa Meitner la taglio corta, si trasferisce a Berlino, perché poi ha le conoscenze con Boltzmann, instaura sia con la famiglia, con Boltzmann, che poi Boltzmann avrà una fine molto drammatica, perché si suiciderà a Duino, nel castello di Duino a Trieste, morto suicida, povero Boltzmann, non si sa perché, se questo fu anche dovuto a questo suo ostracismo che ebbe durante la vita accademica. Fu il classico genio incompreso, fu dopo si capì piano piano, dopo la morte di Boltzmann, che le teorie di Boltzmann erano fondamentali. Questo però Lisa Meitner lo capì subito, abbandonando proprio le teorie positiviste che all'epoca predominavano sotto l'influenza appunto della grande importanza che aveva il personaggio di Ernest Mach. Quindi sono anni in cui lei dedica anima e corpo proprio allo studio della fisica atomica. Scoppia la Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale nel 1914, lo sappiamo, non ripeto, viene sotto la Germania dichiara guerra, e in quel tempo lei già faceva parte, appunto era già direttrice dell'Istituto di Fisica di Berlino, insieme al suo grande collaboratore Otto Hahn, grande chimico. Si fece, come un po' tutti, il mondo intellettuale tedesco, prese parte alla Prima Guerra Mondiale in senso ideologico, in senso politico, cioè nel senso che si fecero trasportare dalla propaganda politica. Fu Lisa Meitner, come tantissimi altri fisici, tra cui Otto Hahn, tra cui poi ricordare la figura di un fisico che fu fondamentale, Herbert, un chimico per la precisione, con cui Lisa Meitner lavorò tantissimo in tutto l'arco della sua vita fino alla sua tragica morte durante il nazismo. Furono tutti interventisti. Però questo interventismo, in cui Lisa Meitner lo giustificava dicendo che ci sono ideali collettivi che vanno al di là degli interessi personali, quindi c'era una forma di totale devozione agli interessi della patria, in cui la soggettività veniva molto passava in secondo piano rispetto agli interessi della patria, ma in questa sua trasporto anche emotivo, come di molti, cercò di adoperarsi, mentre gli uomini proprio dedicarono la loro attività scientifica, la trasmutarono, la cambiarono, cioè dagli studi di fisica di base incominciarono proprio a lavorare per la costruzione di nuove tecniche militari, di nuove tecnologie affinché rendessero la Germania più potente. E lo stesso Herbert, come Otto Hahn, soprattutto Herbert, che fu poi passò alla storia in maniera diciamo, non bella, come il padre della guerra chimica, perché negli studi di radiochimica, dove Lisa Meitner diede un contributo fondamentale, furono completamente deconnotati, se si può dire, passatemi il termine, e diventarono studi in cui si studiavano armi di distruzione di massa, cioè appunto agenti chimici che poi furono applicati nella prima guerra mondiale dai tedeschi, soprattutto contro i francesi. A quel tempo però Lisa aveva abbandonato lo studio sperimentale, perché appunto, come Madame Curie e la figlia Irene Curie, sentivano questo bisogno di rendersi utile, contribuire alla guerra, e lo fecero come croce rossine, cioè quindi come infermiere, avendo abilità appunto perché i raggi X erano stati già scoperti, già venivano utilizzati a scopo medico, si dedicò lei, come Madame Curie e la figlia, però su un altro fronte, lei sul fronte russo da parte della Germania, Madame Curie dal fronte francese, appunto a fare la croce rossina, a fare raggi X per molto tempo. Poi fu trasferita, facendola breve, fu trasferita e quindi venne meno anche la sua funzione da infermiere, da radiologa, come possiamo dire oggi, e tornò nel laboratorio a Berlino. Tornando al laboratorio vide stravolto, ma questa esperienza da croce rossina gli fece subito cambiare idea. Ecco, questo è da sottolinearlo, che prima, come interventista convinta della prima guerra mondiale, l'atrocità, gli orrori della prima guerra mondiale, ciò che vide con i propri occhi, la fecero diventare una pacifista convinta. Dico solo questo per onor di cronaca, perché tu hai citato Stein, ma appunto quando io dicevo che quasi tutti, il mondo accademico, l'intelligenza tedesca si era schierata a favore del conflitto, l'unico che invece nel 1914 firmò insieme all'unico fisiologo Nicolai intitolato Il manifesto agli europei, in cui condannava apertamente le intenzioni belliche, aggressive e colonialiste della Germania, fu il grande Einstein. Quindi, mentre gli altri piano piano, attraverso vicissitudini, questo per dire che attraverso, come dire, la vita pratica, l'ingenuità, diciamo, iniziale di analisi, la superficialità su determinati tipi di contenuti, l'unico che da subito vedeva chiara la situazione era Einstein, ed è sempre stato il pacifista da sempre, dalla prima ora, mentre gli altri hanno avuto appunto quello che tu sottolineavi, e quello che noi diciamo, i limiti di ciascuno scienziato, gli errori, il tornare indietro, il ritornare sui propri passi, anche fare autocritica, perché sono uomini con tutti i propri limiti, e quindi la scienza condizionata anche su questo, perché il fisico Herbert, che faceva la chimica, fu perseguitato, come vedremo, dal nazismo. Da carnefice a vittima, ma gli errori si pagano anche. E così andiamo, facciamo uno stacco, se no divento troppo pedante per rilassare un po' i radioascoltatori. D'acqua e plana lungo il fine settimana sulla tavola da surf. Questa rabbia, questa sabbia in bocca, questi amari lecca lecca, questa rogna, questa misera California, questo sciocco vento di scirocco, questo non c'è fine al peggio, questo pomeriggio l'onda ci trascina giù, giuro che non si tocca giù, oltre le acque sicure giù, nelle nostre paure gli schiaffi frangenti contro. Siamo resti Ed ecco, torniamo in ascolto, lasciando in sottofondo Acque Sicure, le acque sicure che aveva Liz Meitner nel racconto del comandante Jacopo aveva abbandonato, passando dall'interventismo iniziale al lavoro sul fronte come radiologa, e dopo essere diventata da studentessa, come avevamo detto all'inizio, da studentessa anomala, no? In quanto già soltanto in quanto donna all'inizio del Novecento che riesce ad accedere all'Accademia, e era diventata direttrice di un laboratorio di Berlino che addirittura durante la prima guerra mondiale, mentre lei alla fine si impegna al fronte come radiologa, viene riconvertito nella fabbricazione di armi di distruzione di massa. Tornando a Berlino, una trasformata Liz Meitner, non più interventista, ma anzi si ferma su posizioni pacifiste, incontra anche il pensiero di Einstein che come esempio di coerenza politica è sempre stato contro ogni tipo di intervento, lo sappiamo, anche successivamente si comportò nella stessa maniera. Quindi adesso abbiamo lasciato la nostra Liz Meitner al ritorno dalla prima guerra mondiale, al rientro al suo laboratorio di Berlino. Jacopo ci ha detto che era stata folgorata sulla via della fisica dalla visione atomistica della realtà di un Boltzmann che non veniva creduto all'inizio, non gli veniva dato retta, e che addirittura la teoria dell'atomo era addirittura forse stata così incompresa che lo spinse alla depressione e poi al suicidio. Liz Meitner invece l'ascolta e la sua carriera universitaria e da direttrice del laboratorio prosegue in quella direzione. Siamo nella Berlino del dopoguerra a questo punto, del primo dopoguerra. Diciamo la Berlino del dopoguerra, lei è alla corte di Planck, del grande Max Planck, che possiamo definirlo il padre dei quanti moderni, cioè il pioniere, il padre della futura meccanica quantistica. Planck è un'autorità, è già una grande autorità, è un punto di riferimento, tant'è vero che riesce Planck a convincere Stein a tornare a Berlino a dare l'incarico di direzione dell'Istituto di Fisica, e Stein si fa persuadere. Stein non voleva tornare in Germania, lui era... si fece cambiare nazionalità, lui era svizzero, però non poteva rifiutare, perché capiva che lì era il punto nevralgico di tutta la fisica moderna di quegli anni. E quindi Stein torna a Berlino già famoso. Lisa Meitner conosce pure Stein, Lisa Meitner suonava come Stein, insieme a Planck e Stein si incontrano anche nelle serate musicali, nelle serate, e quindi suonava uno strumento? Suonava uno strumento. E che suonava? Il violino, penso, come Einstein, o il pianoforte, non ben ricordo, però era una musica. Quindi dopo il laboratorio andavano... Sì, anche perché a quegli anni, essendo viennese, la musica... Chi non se la ricorda? No, scherzo. Anche noi, finita la trasmissione, andiamo a suonare qui, nel locale qui sotto. E comunque, quindi viene molto influenzata dal pacifismo di Stein, dalle idee anche molto poco ortodosse, no? Che ha questo grande scienziato. Quindi lei continua gli studi, con Otto Hahn. Dopo la guerra, la Germania, a parte lo scotto della prima guerra mondiale, piano piano abbiamo la ripresa, no, della Germania, e quindi si vive un periodo più o meno tranquillo anche da un punto di vista democratico, in cui rifiorisce la vita, il dibattito democratico e il dibattito intellettuale artistico nella società tedesca, che è la Repubblica di Weimar. E in quegli anni Lisa Meitner insieme a Otto Hahn fondano un grande istituto di radiochimica, hanno le più grandi scoperte dell'epoca da un punto di vista sperimentale. Diciamo che lei era una teorica, ma diciamo che aveva quella parte teorica che Otto Hahn non aveva. Otto Hahn era un chimico puro, era molto bravo sugli esperimenti, Lisa Meitner anche, ma Otto Hahn mancava di tutta quella parte fisico-teorica che che serviva poi per inquadrare in un piano concettuale ciò che veniva scoperto sperimentalmente via via. Lisa Mainter e insieme a Tuan pubblicano tantissimi articoli, scoprono gli elementi nuovi che non si hanno in natura, i transuranici. Il proactinio scopre, per esempio, cosa sono i transuranici brevemente. All'epoca in cui anche noi, no, appunto, fondamentale il contributo dei ragazzi di via Panisperna con Enrico Fermi, si incominciò a capire che bombardando dei nuclei atomici con dei neutroni, che sono una componente fondamentale del nucleo, sono delle particelle che costituiscono il nucleo atomico, costruendo proiettili di neutroni e facendoli incidere, collidere sopra altri nuclei, venivano a formarsi dei nuclei più pesanti, diciamo così, che avevano un più alto numero di protoni, di neutroni, un più alto numero atomico, che si andavano a collocare nella tavola di Mendeleev più in là, diciamo, erano artificiali, si chiamavano appunto i transuranici. E quindi via via, attraverso appunto sperimentazione e teoria, loro incominciano a inquadrare sia sperimentalmente che concettualmente tutto l'apparato che oggi noi conosciamo perfettamente, che sono gli isotopi radioattivi, che è tutta quella parte che ormai abbiamo a che fare, come l'uranio, il plutonio, tutti questi nuovi elementi che noi continuiamo a parlare, che ci fanno anche paura, no, quando ci sono gli incidenti nucleari, vengono da queste cose, da questi esperimenti qui. Lisa Mainter inizia a diventare veramente famosa, e nonostante è molto famosa, anzi famosissima in ambito accademico, percepisce un decimo del appunto del collega Otto Hahn a pari merito. Loro sono, diciamo, oggi si dice inquadrati alla stessa maniera, erano due professori associati, lei un decimo di stipendio. E continuerà alla faccia, quindi l'elemento di attuale critica, no, allo stipendio era ancora più forte allora, anche in ambito scientifico. Ecco, questo per rimarcare che non è cambiato, da questo punto di vista non è cambiato molto, forse il rapporto non è più 1-10, ma è comunque abbastanza, il divario è sensibile, certo. Quindi queste sono le più grandi scoperte. Scoppia appunto l'ascesa, più prima che scoppia la seconda guerra mondiale, c'è l'ascesa del nazismo in Germania. Il 24 marzo del 1933 Hitler prende il potere, e da qui che succede l'irreparabile, succede quello che ovviamente non è che sono qui a rimarcarlo, che tutti i radioascoltatori penso lo sappiano e lo abbiano ben chiaro da questo punto di vista. Fu una vera all'inizio con le prime leggi, prima con l'interdizione ai lavori pubblici degli ebrei, quindi Lisa Mainter riesce comunque a rimanere al suo posto nonostante essere interdetta fino al 1938, mentre tantissimi, perché lei comunque era, prima di tutto aveva la cittadinanza austriaca, fino a quando Hitler non invade l'Austria, diciamo che questi, diciamo che le leggi di razziali da quando all'inizio erano via via crescendo, ma all'inizio più blande da parte del nazismo, non la toccarono, però via via incominciò a vedere tantissimi colleghi scomparire, proprio essere licenziati, non poter più usufruire delle cariche pubbliche, e questo solo per dire che, per esempio, anche lì nel mondo accademico furono epurati dal mondo accademico 1200 scienziati, e considerando che la maggior, anche se gli ebrei in Germania non erano tanti, era l'1%, però si sa che comunque avendo una tradizione il popolo ebraico che è molto sensibile alla cultura, quindi le famiglie ebree erano per lo più intellettuali, classe dirigente, eliminando 1200 persone, 1200 intellettuali dall'università, anche l'università tedesca fu distrutta, e quindi questa fu una vera carneficina intellettuale. D'altra parte invece chi era ariano, chi non aveva di questi problemi, subito ci fu un manifesto, come fu il manifesto fascista, in cui praticamente aderì quasi tutta la totalità all'adesione al partito nazista, più di 960 già nel 1933, subito dopo l'ascesa al potere di Hitler, tutti aderirono. C'è da dire che comunque tutti gli scienziati, tra cui i più grandi eminenti, da Planck a Heisenberg, a tutti quelli che all'epoca erano i big della scienza moderna, ovviamente non condividevano lo stesso Otto Hahn. Però ci fu questo, ecco, questo non voglio allungarla da questo punto di vista, ma mentre Einstein subito, come appunto subito condannò subito l'ascesa al potere di Hitler e i nazisti, prima ancora della presa del potere del nazismo, tant'è vero che lui senza mezzi termini fu uno dei primi a andar via, scappò il 10 dicembre del 32, qualche mese prima, perché a dicembre poi Hitler fu nel marzo, l'ha presa al potere, quindi Einstein ha preso l'occasione di una serie di conferenze in America e da lì non tornò più dalla Germania. Mentre gli altri la presero sotto gamba, come tutti, la stessa Lisa Meitner, pensava che non poteva arrivare, si potesse arrivare a una situazione che poi tutti abbiamo visto. Quindi l'atteggiamento degli scienziati fu quello di all'inizio di lasciar perdere, di non condannarli, di dire che comunque la cosa si poteva contenere. Poi pian piano, siccome si inaspriva sempre di più e si vedeva che la situazione volgeva al peggio, Planck, io faccio adesso riferimento al personaggio di Planck perché è emblematico da questo punto di vista, all'inizio cercò di aiutare, di opporsi, però vide che era impossibile. Addirittura ebbe un colloquio con Hitler, perché appunto quell'Haber, il capo del Dipartimento di Chimica che elaborò le armi chimiche nella Prima Guerra Mondiale, nella Seconda Guerra Mondiale, essendo ebreo, fu cacciato addirittura. All'inizio lui, siccome essendo stato insignito al merito della Prima Guerra Mondiale, di riconoscimenti militari appunto per questi motivi, essendo anche cattolico e non più ebreo, fu risparmiato fino alla fine. Fu costretto all'inizio, prima di essere cacciato, di prendere provvedimenti, cioè lui doveva cacciare i suoi collaboratori ebrei. Lui prese posizioni subito dicendo: io non caccio proprio nessuno, per me non è una questione di razza ma è di merito. Quindi si oppose in un certo senso al nazismo. Non ci fu verso da questo punto di vista, perché la pazzia hitleriana continuò a dilagare, e da questo punto di vista a un certo punto Planck intervenne chiedendo, quando si videro di fronte al licenziamento di Herbert da capo dell'istituto, a quel punto Planck prese posizione, ebbe un colloquio con Hitler, vide la pazzia di Hitler. Questa proprio fu una testimonianza di Planck, in cui cercava di argomentare Planck davanti a Hitler. Hitler diceva: no, lui è ebreo, lui è un comunista, lui deve essere, insomma, tutto quello che poi ha rappresentato Hitler, senza allungarmi. Quindi la soluzione di Planck fu quella, a quel momento, di dire: va bene, noi non ci ammutiniamo, non ci licenziamo, noi cerchiamo di salvare la scienza tedesca, questa orda di barbari passerà dalla storia, riusciremo a salvarci, intanto noi preserveremo questa fisica, la fisica tedesca. Herbert fu licenziato, arrivò Otto Hahn, prese Otto Hahn il posto, il grande collaboratore di Lisa Meitner. All'inizio cercò in tutti i modi di salvare Lisa Meitner, però poi si trovò anche lui costretto a licenziarla da un punto di vista formale. Poi l'aiutò sempre in una maniera, diciamo, ambigua, perché poi quando arrivò il momento del premio Nobel, perché Otto Hahn prese il premio Nobel nel 1945 grazie agli studi appunto sul nucleo atomico, di cui Lisa Meitner fu fondamentale, perché prese il premio Nobel nel 1945 per un esperimento del 1944, Otto Hahn, sulla fissione nucleare. Cioè riuscirono praticamente Lisa Meitner e Otto Hahn, anzi all'epoca Lisa Meitner già era fuggita, dovette fuggire e andò in Svezia, riparò in Svezia. Otto Hahn continuò gli esperimenti, nel 1944 fece un esperimento con il suo collaboratore nuovo Strassmann, scoprì la fissione, fece un esperimento in cui la fissione venne scoperta, ma non capì da un punto di vista teorico cosa era successo. Riuscirono a fissionare l'atomo di uranio si spezzò, lui non capiva il perché di questo, chiese aiuto a Lisa Meitner, che era segregata in Svezia, perché esule. Lisa Maiden, insieme al nipote Frisch, che anche lui esule, diedero la spiegazione teorica di quella che è stata poi la fissione nucleare. Otto Hahn prese il premio Nobel per questo, non venne mai citata Lisa Meitner per questa scoperta, lui se ne ebbe proprio, se ne ben guardò, e quindi il premio Nobel lo prese solo Otto Hahn, e Lisa Meitner non gli fu mai riconosciuto questa grande scoperta. Questa, per farla in maniera molto molto breve, perché si dice che non c'è più tempo. No, non è soltanto che hai messo tantissima carne al fuoco per ripercorrere la cosa. Lisa Meitner dovette andare via in quanto ebrea, donna, sì, perseguitata dal nazismo, mentre invece i suoi colleghi maschi e non ebrei, quindi non perseguitati, nel tentativo estremo di secondo loro di difendere la scienza tedesca, di fatto si comportarono esattamente come i nazisti, cioè favorirono la fuoriuscita in qualche modo, favorirono, poi tra l'altro la storia è detta oggi, è stata abbastanza rocambolesca dell'uscita. Lisa Meitner si riesce a rifugiare in Svezia, partecipa a dare moto, diremmo adesso, alle scoperte scientifiche, e non gli viene riconosciuto un bel niente. Quindi quegli stessi scienziati che tutto sommato sembravano opporsi al nazismo, di fatto approfittarono in qualche modo personalmente utilizzarono Lisa Meitner. Comunque io farei, Jacopo, un altro piccolo stacco e poi ci racconti come è finita, perché come è andata alla fine. Tutti a mare, mamma chiama i bambini per farmi giocare con loro sul mare, ma riesco a fuggire. Tanto mi accorgo che babbo si perde a guardare le donne del mare, tutte nude, tutte a mare. Mamma non vuole comprarmi la noce di cocco e mi porta a bagnare la testa con l'acqua di mare che il sole comincia a scottare. Tira fuori i panini con l'olio e col sale, con la pipì del cane. Hey, hey, hey, buttalo in mare. E sono a sedere sulle ginocchia del mio più forte zio, che è quello che a Forte dei Marmi ha vinto una gara di tiro al piattello ed una di ballo. Cioè che oggi è venuto con